viaggiatore, sei stato anche uno stilista, perché tu facevi la famosa Bibbo e Sac, insomma, avevi una boutique di alta moda. A livello internazionale, allora, io... perché tu mi hai fatto vedere delle fatture dove vendevi addirittura New York, a Tokyo, Londra, insomma. Londra, vedi. Una volta mia figlia che ha fatto la babysitter alle nipoti di quello che vende gli accessori, Gasperino. E gli raccontavo sempre, una volta stavo a Londra in un negozio, ci stavo le borse domani. Ma le mie borse stavano in tutto il mondo, perché io ero molto furbo, capii che fare le manifestazioni era un modo per essere conosciuto. Ma Steve Jobs, no io, Tonino Biggini o Walter Catini, Steve Jobs diceva che investire in pubblicità in momenti di crisi è come potersi costruire le ali mentre si sta precipitando. Io facevo le mostre, sono stato il primo a fare la Fiera di Milano, la Fiera di Wilson, il Mibre, sono stato il primo, ma io facevo 30 borse al giorno, che ero completamente un piccolo artigiano. Io ho continuato a fare sempre 30 borse al giorno, ma facevo le grandi fiere perché me ne ordinavano 100, era un modo di dire. Ma io ne facevo sempre 100, aumentavo solo il prezzo. Quando qui vendevo le borse a 3.000 lire, io le vendevo a 15. Ma io ho venduto l'ultimo ora. Come ti presentavi a Lilton? A Lilton di Milano, io avevo, a quei tempi, avevo una Bentley, ma prima della Bentley avevo avuto un 519 Fiat Cabriolet. Io arrivavo, io ho le fotografie con la mia Bentley bianca, con scritto Hotel Hilton, meeting della pelletteria. Arrivavo davanti a Hilton, però arrivavo con Caratrezzi, ecco la fine del 519, arrivavo con Caratrezzi alla stazione ferroviaria di Milano, Hilton è stato 300 metri, scaricavo la macchina a Caratrezzi e arrivavo in moto. Hilton mi faceva mettere l'automobile davanti proprio all'ingresso. Quindi tutti quelli che entravano a vedere la fiera del Hilton passavano davanti a questa Bentley o al 500 Fiat 19, 521 del 1919 Cabriolet, lo facevo con due macchine. Quindi erano meravigliati di vedere questa macchina e leggevano il buone sacche. Io non ero nessuno. Ma a quei tempi vicino a me ci stava Cavalli, ci stava Guidi, quello che fa le borse, Guido, come cazzo si chiama, quindi stavamo tutti quanti nello stesso piano. Ma quando passavano davanti al presidente, dice questo è quello della macchina sotto, e entrava, grande furbizia. Poi io quando ripartivo caricavo tutto sulla 519 del 21 Cabriolet, tre scaline per salire, lo stand, le valigie, gli oppellotto, e partivo e tutti mi salutavano. Facevo 300 metri, la caricavo sopra il Caratrezzi e tornavamo in Mercedes, perché Caratrezzi stava autista con Peppino Villa. Grande furbizia. Grande strategia. Marketing. Ma io ti ho fatto vedere fatture a Osaka, Londra, New York, Parigi, dappertutto, Sydney, in Australia, aumentavo la prezzo.